Siamo al telefono con Matteo per parlare della nuova edizione di Arti Vive. Intanto ciao Matteo e come stai? Ciao, ciao. Intanto grazie mille dell'invito. Bene, bene, siamo insomma sotto i preparativi e non vediamo l'ora di iniziare questa 18ª edizione di Arti Vive Festival. Ecco, Arti Vive ha un po' un motto, le arti vive che non ti aspetti, che contrastano e che fanno male prima di fare bene, che non ti vanno comode, alle quali non si è mai pronti e se vengono accolte, accettate e normalizzate si sdoppiano per fuggire a loro stesse, per continuare a evolversi senza mai una fine. Ecco, vuoi raccontarci un po' cosa significa questo e cosa significa anche il festival per voi? Certo, guarda, da quando è nato Arti Vive insomma è cambiato negli anni, si è strutturato, organizzato in modo diverso, però la cosa che non è mai cambiato è l'identità, e cioè cercare il più possibile di sorprendere il pubblico. Non è solo un festival di musica, è un festival di, oltre alla musica c'è tanto teatro, performance, ci sono tantissime attività collaterali, quindi cerchiamo in un qualche modo, sì, ci sono concerti con nomi più affermati, ma ci piace che il pubblico venga magari per nomi più conosciuti, ma poi scopra non solo altri artisti, ma scopra luoghi nascosti di Soliera, scopra anche, conosca anche nuove persone e crei relazione attraverso, grazie insomma all'atto artistico che avviene tra tutte le piazze che ospitano il festival. Ecco, hai parlato di Soliera e Modena, che sono i due posti in cui si tiene il festival. Voi avete un rapporto col territorio che è molto forte e nel tempo è anche maturato. Qual è il vostro rapporto con Soliera e Modena, appunto? Guarda, Soliera è la città dove è nato, dove si è sviluppato Arti Vive e dove anche per questa edizione sta il vero cuore del festival. E Modena è da 3 anni, fortunatamente, abbiamo instaurato questa nuova collaborazione con la città, con l'amministrazione comunale di Modena, e quest'anno per esempio ci sarà la festa di chiusura, su Modena sarà una sola data. Su Soliera invece il festival è ben radicato, è nato grazie alla collaborazione di tantissime realtà associative giovanili e negli anni ha abbracciato tante altre associazioni, realtà del territorio e tantissimi ragazzi giovani volontari che banalmente si prendono le ferie per una settimana per aiutare negli allestimenti, nella gestione dei punti di spettacolo, di ristoro, quindi è veramente una manifestazione fortemente legata al territorio, senza tutta questo volontariato, nel senso più positivo del termine, sarebbe veramente difficile riuscire ad organizzarlo. Ok, arriviamo allora alla parte un pochino più musicale dell'edizione di quest'anno. Chi troveremo dal punto di vista musicale, se vuoi farci un po' una panoramica della certo. programmazione? Guarda, tutti gli anni, in ogni edizione, sulla musica cerchiamo sempre di affiancare nomi più internazionali, come dicevo prima, a nomi magari più o locali o realtà meno note, proprio perché l'obiettivo è quello di far scoprire tanto al pubblico. Faccio una carrellata velocissima, tra i nomi internazionali ci saranno i Black Country New Road, che sarà oltretutto l'unico evento a pagamento del festival, per tutti gli altri spettacoli sono gratuiti. Ci saranno i Dead Letter, band post-punk inglese, che sta segnando insomma la nuova letteratura post-punk britannica, insieme anche ad altre band che negli anni passati abbiamo ospitato. Ci sarà tra gli headliner anche artisti, eccellenti penne italiane come Giorgio Boi, Emma Nold, ci saranno Lucy Kruger and the Lost Boys, band a metà tra Berlino e il Sudafrica, con un concerto wave veramente, veramente interessante. E poi ci sono tantissime in realtà più da scoprire, come dicevo, da i Lederet bolognesi, Amalfitano, cantautore romano, Montemei, che ci accompagneranno al dopo festival di notte, una band giovanissima svizzera molto molto interessante, Maciste, anche se a metà tra Carpi e Bologna, gli Alpaca, Stella Barnes, Pip Carter and the Deaths, Francesca Bono, anche se bolognese, che ha fatto un album bellissimo, non vediamo l'ora di vedere in apertura i Black Country New Road. E poi chiuderemo il 12 luglio invece con la festa di chiusura a Modena, con la vera e propria festa di chiusura con White Mary, e in apertura i Bremo, che è una band che abbiamo scoperto durante il festivalino solido in collaborazione con gli amici di Ferrara, Sotto le Stelle e Cesena ce l'ha aperto, i Bremo, che è una band cesenate molto molto interessante. Perfetto, quindi direi che c'è di tutto di più, spaziando anche tra i generi, come sempre, come ci ha abituati Arti Vive negli ultimi anni. E a proposito di Solido, di cui hai parlato poco fa, come funziona questa collaborazione e cosa vi sta portando in questi anni? Guarda, è un progetto, e ormai ci avviciniamo al quinto anno, insieme al Festival Ferrara Sotto le Stelle a cielo aperto, che ci vede un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Legge Musica, ed è un progetto che ci vede impegnati in abbiamo alcune mission. La prima di queste è far circuitare all'interno dei nostri festival artisti interessanti emiliano-romagnoli. Un po' li ho citati prima, tante delle nuove proposte che ho citato sono emiliano-romagnole. C'è anche, non ho citato per esempio, Stefano Barigazzi, un ragazzo giovanissimo che vive sull'Appennino reggiano e fa un blues elettronico molto interessante. Quindi questa è la prima mission. E poi ci poniamo come obiettivo anche quello di costruire una vera e propria rete di festival, come fosse un calendario esteso in Emilia-Romagna tra le tre realtà. E non a caso poi tutti gli anni cerchiamo anche un momento condiviso più festivaliero, lo chiamiamo festivalino, e ogni anno, l'abbiamo fatto 2 anni fa a Soliera, l'anno scorso a Cesena, quest'anno abbiamo da poco fatto la conferenza stampa che si terrà a Ferrara, la prossima edizione del festivalino Solido a novembre. Perfetto, insomma, tra l'altro possiamo dire 3 realtà che puntano molto sulla qualità musicale piuttosto che sui nomi magari enormi o così, che è una cosa, a nostro avviso, per come amiamo i festival e li conosciamo noi, è una cosa che ci piace veramente tanto. Quindi insomma, complimenti anche per la scelta della lineup di quest'anno. Ci sono nomi... piace sempre dire che proviamo a fare un festival tra virgolette internazionale, ma a misura d'uomo, cioè, dove veramente uno puoi vedere gli artisti a un metro, essere sotto al palco, respirare veramente l'energia di un concerto, non dover guardare un concerto col binocolo, ma soprattutto a misura d'uomo, perché come dicevo anche nell'introduzione, per noi è importantissimo che un festival sia anche un mezzo di per creare relazioni tra il pubblico, tra gli artisti, insomma tra tutti, e la città soprattutto, tra tutti coloro che vivono quei giorni di manifestazione. Perfetto, e essendoci stati noi possiamo confermare che tutto questo che hai raccontato si vive benissimo. Allora ricordiamo, Arti Vive a Soliera dal 3 al 6 luglio e a Modena il 12 luglio con la festa finale. E a questo punto io, Matteo, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata. Ti chiedo se hai un invito magari e una canzone per chiudere l'intervista con cui dare appuntamento al festival. Guardi, ho appena ascoltato, che mi piace tantissimo, Risk di Lucy Kruger and the Lost Boys, pezzo che mi piace tantissimo, che vedremo il 5 luglio dal vivo in Piazza Soliera. Perfetto, allora appuntamento ad Arti Vive, grazie mille e insomma in bocca al lupo per tutto il festival. In bocca al lupo e grazie a voi, grazie mille.